Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. What's with you? You really want to know? Of course I do. What kind of a father wouldn't care about a pig wearing a hat? Like luck, like a star. You've been getting old now. Stay young, you'll go far. Leave your bedroom door ajar. Star in the hills, on the plains, and the touch the rich with the ease, with the cash, with the sleep, with the beds. The rest they get is wicked. A pin fed camel's head. Tell yourself that all you're dead. We've been waiting. È la seconda parte di Eclettica, quella che è iniziata ormai da qualche minuto. È la voce di Giulio Caperdoni, quella che state sentendo tutti i giorni fra le 19 e le 20 qua sulla frequenza di Rock FM. Qualche informazione di servizio. Partiamo con la lista nera, ovvero sia la mailing list a cui iscriversi nel caso vogliate ricevere la playlist della trasmissione settimana dopo settimana. Per farlo mandate un mail a giulio@rockfm.com. E poi il podcasting, ovvero sia la possibilità di scaricare tutti i volumi di Eclettica in modo da potersi riascoltare e riascoltare quando meglio preferiti. I dettagli li trovate oltre che sul sito della radio anche su myspace.com/eclettica. E passiamo a quanto vi siete ascoltati. In apertura di questa seconda parte, Kelly Stoltz dal suo ultimo per Sub Pop, era Your Reverie, e poi da New York Magic Marcus con Empty Bottles, per proseguire con Badly Drawn Boy, che ripubblica un brano che era già presente nel suo album del 2006 per la colonna sonora di un film, Definitely Maybe. Il brano si chiama The Time of Times. Did your head not right? Did you heed my warning? This is the time of times, and your head feels like your body. Your mind is close behind. There's a teardrop on your shoulder. Says this is the time of time. It's the time of time. Bene, perché tutte le altre case erano il sogno di un uomo che era nato povero e voleva impiantare la sua gloria. C'era in loro tutta la nostra vita. C'erano le statue, i quadri, i tappeti, i Buddha, il letto cinese e tutta la mia biblioteca. Ma in verità, Folco, te ne accorgerai anche tu quando sarai più vecchio. Si cresce aumentando la propria roba, no? Compri dei mobili, un bel tavolo da pranzo per invitare la gente. Ti fai una casa di 4 stanze, no, ce ne vogliono 8 perché manca la camera per la bambina, poi quella per gli ospiti. Sempre questa crescita. E alla fine ti accorgi che fra le grandi case con cui ti realizzi e la bara con cui mi porterete a cremare, mi raccomando, semplice, eh? Perché quelli cercheranno di imporvene una di palissandro tutta lucidata con le borchie d'oro. Che fra quelle case e questa bara c'è solo un sogno. La casetta nell'albero che avevi sognato da bambino. Sai, sali su in mezzo alle foglie. Bene, io qui me la sono costruita quella casetta. Eccola qua, la mia gompa dove vivo. Una scatola di legno che ho reso tibetana nei colori e nelle cose e che mi piace moltissimo. Mi sento nella mia dimensione qui. Quanti sono? 3 metri per 2? C'è tutto. Tutto quello che ancora mi fa sentire. Tutto quello in cui sono a mio agio. Di quante belle cose sono stato il custode nella mia vita. Ma alla fine, come dice la mamma, non hanno ancora inventato la bara col portabagagli. Questo era ancora La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani. Shut up and watch.

Era questa All My Friends, canzone originariamente degli LCD Sound System, ma ora rifatta dai The Man Drag, prima ancora Blood on the Wall con Junkie Julie ed ora una novità. Vi ricordate qualche mese fa, ci eravamo ascoltati un 7 pollici di un gruppo inglese, un duo inglese all'esordio, 7 pollici intitolato I Hate Nightclubs e il loro nome era I Was a Cub Scout. Ecco, ora gli I Was a Cub Scout sono arrivati, mancano pochissimi giorni, al loro album d'esordio. Uscirà il 18 di febbraio su Bunket Records, album intitolato I Want You to Know That There Is Always Hope, e questa è Pink Squares. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 15, volume numero 2. Indice, Misophone, Good Times, Good Times, Get Well Soon, My Robot Friend, The Big Sleep,